Uno, due, tre. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Siamo qui alle 7 e 20 minuti, pronti dunque a leggere i giornali e pronti anche più tardi a avere i nostri ospiti. Alle 8:15 avremo Umberto Ambrosoli, che è il candidato per il centro-sinistra, ha vinto le primarie alla Regione Lombardia. Sarà il nostro ospite. Poi parleremo, a proposito di Lombardia, delle spese un po' pazze, diciamo così, un po' pazze, un po' curiose, sulle quali la Procura della Repubblica di Milano sta cercando di fare luce proprio alla Regione Lombardia, no? Ne abbiamo sentite un po' di tutti i colori: i lecca lecca, i videogiochi, i libri rimborsati, i CD, le cene, tutti a mangiare, sempre a mangiare. È tutto in regola, ne parleremo alle 8:30 quando ci saranno Massimo Cacciari, ci sarà anche Mario Mantovani, che è il coordinatore della Lombardia del Popolo della Libertà. Questo più avanti, allora, i nostri ospiti, e ora andiamo a vedere appunto cosa ci propongono i giornali che trovate in edicola. Questo martedì 18 dicembre, intanto i titoli, come di consueto, il Sole 24 Ore apre sulla legge di stabilità, il nuovo fisco dei comuni, la tassa rifiuti slitta ad aprile, questo è il titolo di prima pagina. Poi tutti i quotidiani aprono sulla vicenda Napolitano, il discorso: darò io l'incarico, sarà politico Napolitano, non bruciate la fiducia riconquistata. Così il Corriere della Sera. Per Repubblica invece Bersani e Monti, l'intesa non c'è. Per La Stampa, il prossimo premier sarà politico, sono le parole di Giorgio Napolitano. Il Messaggero, nomino io il nuovo governo. Il Fatto Quotidiano, Napolitano contro Monti, dopo il voto decido io. L'Unità, Napolitano, governa chi vince. Avvenire, fiducia da non bruciare, Napolitano, troppo brusco questa fine di legislatura. Mentre Libero, i soldi dell'IMU regalati all'Europa. Il Giornale invece, magistrati in politica, mani sporche sulle elezioni. Il Manifesto mette come titolo di prima pagina il concorsone, ma non si riferisce tanto al concorso per i professori, ma c'è la foto di Bersani e Monti in prima pagina. Mentre Pubblico che ritorna in edicola dopo un giorno di sciopero, insomma dopo una situazione anche che qualcuno ipotizza di possibile già chiusura del giornale, Pubblico, forza Giorgio, c'è la foto di Giorgio Napolitano in prima pagina. Questi sono alcuni dei titoli di giornali. Prima però, come al solito, mani sul volante. Questo è il momento della notizia che vi fa un pochino arrabbiare, ma voi ben salde quelle mani se state guidando. Se siete a casa a fare la colazione e avete in mano un coltello, poggiatelo, per esempio, posatelo un attimo. E il Corriere della Sera racconta, pagina 24, gli irriducibili delle auto blu, in 23 in servizio per 5 vetture. E di che si tratta? Sergio Rizzo racconta del Consiglio regionale del Lazio, dove fra gli inarrivabili record collezionati dai politici non poteva mancare il più simbolico, quello delle auto blu. I 70 consiglieri regionali del Lazio ne avevano a disposizione 26, che sommate a 4 dell'amministrazione portavano il totale a 30. 30, pensate, con un punto esclamativo, scrive Sergio Rizzo. Numeri che fanno ben capire perché quel consiglio radimissionario avesse una quantità così spropositata di commissioni, una ventina. Anche ai presidenti di commissione, infatti, spettava di diritto la macchina di servizio. Poi è scoppiato lo scandalo dei fondi. E di qui le auto blu sono state ridotte a 5, con un bel risparmio. Se si considera che ogni macchina costa fra noleggio, assicurazione e benzina la bellezza di 2.000 euro al mese, senza tener conto degli autisti. Già, quanti erano gli autisti? Difficile dire, certo però dovevano essere un esercito. Il problema è che adesso non è quanti erano, scrive Rizzo, ma quanti sono. Rispediti al mittente gli esterni, ne sono rimasti infatti ancora 23. Avete capito? 23 autisti per 5 macchine attuali, di cui 4 spesso chiuse in garage. Cioè, in pratica, per una macchina, 23 autisti per una macchina, dunque. Per capirci, la Camera dei Deputati, che di onorevoli non è a 70, bensì 630, ha 24 autisti, Cioè, la Camera dei Deputati ha 24 autisti per 630 deputati. Al Consiglio regionale del Lazio, racconta Sergio Rizzo, ci sono attualmente 23, uno in meno della Camera, autisti per 70 deputati e sole 5 macchine di servizio rimaste. Rapportate al numero di seggi, è una proporzione 9 volte in meno. Quelli della Camera. Apprese queste cifre, c'è da restare ancora più sbalorditi di fronte al conto lunare dei rimborsi chilometrici presentato lo scorso anno dai consiglieri del Lazio: 370.000, in media 5.285 euro pro capite, con una punta di 21.756 euro presentati da Romolo Del Balzo. Nonostante l'ex presidente della Commissione per le Olimpiadi di Roma 2020, riunitasi 3 volte in un anno e mezzo, andasse frequentemente su e giù da Roma a Minturno con l'auto blu, dunque nonostante andasse 162 km dalla capitale con l'auto blu, ha presentato 21.756 euro di rimborso benzina. Al secondo posto l'immancabile Franco Fiorito. Per un soffio, Air Batman di Anagna ha incassato nel 2011 ben 20.930 euro di rimborsi chilometrici per l'uso della macchina propria. Sebbene la presidente della commissione bilancio avesse il diritto a venire scorrazzato con una delle 30 berline d'ordinanza. Ma comunque 23 autisti per 5 macchine. Sergio Rizzo, anche un bambino arriverebbe a capire che sono troppi. Che fare allora? Semplicissimo, gli autisti vanno riconvertiti come stabilisce la legge. C'è soltanto un piccolo particolare: di cambiare mestiere i 23 autisti del Consiglio regionale del Lazio non ne vogliono sentir parlare. Ed è fin troppo facile capirne perché. Infatti lo stipendio, nel quale figurano oltre al trattamento economico alcune voci accessorie che spingono la busta paga anche oltre 2.000 euro al mese, più di quanto guadagna un funzionario. E dunque le voci accessorie sono in gioco, le perderebbero, e questi autisti non vogliono perdere questo privilegio. 23 in servizio gli autisti per 5 vetture alla Regione Lazio. Vabbè, di fronte a questo ci sono molti giornali invece che parlano di uno scandalo ben più grave e dalle dimensioni ben più ampie, quello delle carceri, le carceri che scoppiano. Marco Pannella è arrivato all'ottavo giorno di sciopero della fame e della sete. I medici dicono rischia davvero la morte. Anche il Manifesto oggi dedica una pagina: sete di candidati per l'amnistia. Questo è il titolo, si gioca anche sullo sciopero della sete di Marco Pannella. La Stampa invece dedica una pagina a questa, con Francesco Grignetti, a questa emergenza. Pagina 19: nei penitenziari il 41% dei detenuti in più della capienza consentita. E tra l'altro è una cosa per cui molti italiani dicono: ma chi se ne frega di quelli che stanno in carcere? Beh, sappiate che la maggior parte di quelli che stanno in carcere in questo momento sono persone in carcerazione preventiva, sono innocenti e verranno poi trovati innocenti. Quindi hanno fatto il carcere, ma poi non ci sarà nessuna condanna per loro e quindi verranno rilasciati. E allora è questa la cifra, scrive la Stampa: presenti nelle carceri 66.363 detenuti, di questi 26.295, quasi un terzo, sono in attesa di giudizio. In attesa di giudizio, può darsi che poi verranno giudicati anche innocenti. Su questo Vittorio Feltri, in prima pagina del giornale, dedica il suo editoriale proprio alla battaglia di Marco Pannella. Scrive Vittorio Feltri nell'editoriale: Pannella sta morendo e gli italiani se ne fregano. Marco Pannella ci riprova, potrebbe essere l'ultima volta, uno sciopero, l'ennesimo della fame e della sete, a quasi 83 anni, è una scommessa sconsigliabile dal nostro punto di vista, ma da quello del grande radicale è una mossa disperata per farsi udire dai sordi del palazzo. L'unico che si fa in quattro per ripristinare la legalità calpestata da questo stato criminale è lui, Pannella, e passa pure per fesso. Davanti alle foto che lo ritraggono smagrito, sofferente, sul punto di morire, molti sbuffano, annoiati, lo accusano di scarsa fantasia, di recitare sempre lo stesso copione, del digiuno totale. Già ogni 2-3 anni quell'omone imponente si fa ricoverare per impietosire gli italiani, i quali invece se ne fregano, hanno capito il trucco esibizionistico. Facile esprimere sciocchezze quando si trascurano i motivi di certe proteste estreme, come facile dimenticare i sacrifici di Marco. Vi ricordate per esempio il referendum che aboliva il finanziamento pubblico dei partiti, approvato dal popolo, disatteso da chi doveva dargli effetto? Vi sembra poco? E quindi, insomma, questa battaglia che scrive Vittorio Feltri, la forza di Pannella moribondo è tutta qui nell'altruismo. Egli non chiede nulla per sé, si danna per dare una mano ai derelitti della società e per aiutare lo Stato a redimersi, visto che si comporta da criminale. Pannella rischia di morire e gli italiani se ne fregano. Effettivamente, scrive Vittorio Feltri, un tema che interessa davvero a pochissimi. L'ottavo giorno di Pannella, di sciopero di fame e sete, con Pannella che ieri è uscito dall'ospedale nonostante i medici lo sconsigliassero, poi è rientrato in serata. In ogni caso, ci fermiamo 4 minuti e poi rientriamo dalla politica. Eccoci qua alle 7:34 minuti per rispondere a un ascoltatore che scrive: ma se i 23 autisti della regione Lazio vengono licenziati, di cosa vivono? Dai da mangiare tu alle loro famiglie. Nessuno vuole licenziarli, caro ascoltatore. C'è una legge che prevede che, siccome non servono più a fare gli autisti, vengano riqualificati a fare qualcos'altro all'interno della regione. Capito? Nessuno vuole mandarli a casa. Non sono l'uomo nero. Non voglio buttarli sulla strada. C'è una legge che dice che vanno riqualificati all'interno della regione a fare altro, visto che non sono più utili, visto che non ci sono più le macchine che devono guidare. Un autista guida la macchina, se non ha una macchina da guidare farà qualcos'altro, ma loro si oppongono perché fare l'autista gli permette di avere, questo leggo dall'articolo di Sergio Rizzo sul Corriere della Sera, degli stipendi con voci accessorie. Nel piccolo e nel grande, nessuno in Italia vuole perdere un privilegio, anche se non ha più senso di esistere. Questa è la verità, caro ascoltatore. Eccoci qua allora alla politica. La politica vede una giornata nella quale il capo dello Stato, Giorgio Napolitano, secondo tutti i commentatori, si è molto adirato ed è molto adombrato e molto arrabbiato, e soprattutto, questo non lo leggerete così con questi toni, non lo dirà mai, non l'ha mai detto, ma si capisce leggendo i giornali, è molto arrabbiato soprattutto con Mario Monti, pare. Racconta per esempio Lina Palmerini che ieri, nel discorso che ha fatto Napolitano, nel quale il titolo è questo del Sole 24 Ore, darò io l'incarico, a pagina 9 del Sole, Lina Palmerini, la frase chiave alla fine, in quelle ultime pagine del suo discorso pronunciato ieri al Quirinale, alla presenza delle più alte cariche istituzionali: mio malgrado toccherà a me dare l'incarico al nuovo governo. Ma non è l'unico passaggio clou di un Giorgio Napolitano, perché dopo aver detto che la brusca fine della legislatura lo porterà a gestire anche le prossime elezioni e la formazione del prossimo governo, chiarisce quali saranno anche i criteri da cui si farà guidare. Non c'è chi non veda come si stia per tornare a una naturale riassunzione da parte delle forze politiche del proprio ruolo, e dunque, sulla base del consenso che gli elettori accorderanno a ciascuna di esse, poggeranno le valutazioni del capo dello Stato. Insomma, si chiude la stagione tecnica e si apre quella del ritorno dei politici. Su Twitter l'ho messa così, come se avesse detto in milanese: te capì, Monti. Cioè si riferiva chiaramente, per tutti i giornali, a Mario Monti, un napolitano che addirittura racconta più avanti Lina Palmerini, in maniera fredda anche, quasi sbrigativa, dando l'immagine di due destini che si separano, stringe la mano al premier. Il premier che aspetta che Napolitano finisca di salutare alcuni ospiti, poi si accorge della presenza di Monti, Napolitano, e gli stringe sbrigativamente la mano. E guardate che non è solo il Sole 24 Ore, leggete anche Federico Geremicca sulla Stampa a raccontare di una giornata molto fredda, di un clima freddo tra Napolitano e Monti. Idillio finito fra i due presidenti, questo è il titolo dell'articolo di Federico Geremicca. Una distanza misurabile ormai perfino fisicamente. Ora, nel grande salone delle feste, quassù al Quirinale, i due presidenti chiacchierano, sorseggiano succo di frutta, ignorandosi, l'uno lontanissimo dall'altro, quasi quanto l'uno vicinissimo all'altro hanno stati per molti dei tempestosi mesi attraversati dal novembre 2011 a oggi. Le scene immediatamente successive al discorso pronunciato ieri da Napolitano, Di fronte alle più alte cariche dello Stato, fotografano la distanza che le parole del Presidente della Repubblica pochi minuti prima avevano in qualche modo annunciato e spiegato. Nessun ringraziamento per il professore che proprio Napolitano aveva investito del ruolo di salvatore della patria. Anzi, parlando di brusca accelerazione imposta dal Premier, aveva gelidamente detto: «Questi», cioè Monti, «ha ritenuto di non poter continuare nella sua azione di governo dopo che il PDL aveva deciso di astenersi nelle previste votazioni di fiducia». Insomma, per molti articolisti e giornalisti che raccontano il clima politico, Giorgio Napolitano si è arrabbiato perché Mario Monti, con queste dimissioni improvvise, ha scombinato tutti i piani che erano nella mente, il percorso istituzionale di Giorgio Napolitano. Ed ecco dunque che anche Marzio Breda, che è il quirinalista, esperto di cose che accadono attorno al Quirinale del Corriere della Sera, pagina 3, racconta la mossa di Napolitano: restare e dare l'incarico. Quella brusca accelerazione impressa dall'annuncio delle dimissioni di Monti ha cambiato tutto su diversi fronti cruciali, in primo luogo sul calendario istituzionale di fine legislatura. Quello stop, soprattutto, scrive Breda, ha scardinato i programmi di Napolitano, che non si congederà più dal Quirinale con qualche settimana d'anticipo, come aveva detto, lasciando al proprio successore il compito di gestire l'ingresso del paese in una nuova fase. Resterà invece al suo posto fino all'ultimo e sarà lui a esplorare gli orientamenti dei partiti dopo il voto e ad affidare l'incarico al nuovo Premier. Lo farà mio malgrado, ha detto. È in cauda venenum, nel finale, osservano alcuni ospiti del Salone dei Corazzieri. Sta di fatto che è un mezzo sfogo personale e sì, forse anche un consiglio l'estremo a Mario Monti. A proposito di Mario Monti, sta diventando una cosa un po' come Berlusconi: si candida o non si candida, si candida o non si candida. Ieri anche Bersani è andato a chiederglielo personalmente, c'è stato un colloquio tra Bersani e Monti, alla fine del quale Bersani, in maniera un po' gelida, ha detto: il Premier ci sta pensando. Questo è l'unica cosa che ha commentato. Monti invece tace. Il Corriere della Sera fa sapere a pagina 5 con Marco Galluzzo che compaiono i simboli Italia per Monti. Parla di Riccardi come ministro, Montezemolo, Leacli e anche Casini come più attivi per cercare di capire che fare. Ma che farà Mario Monti nel caso si dovesse candidare? Si candida addirittura direttamente, vorrebbe dire che si deve dimettere dalla carica di senatore a vita, perché lui è già in Parlamento, quindi non avrebbe bisogno di candidarsi. Se vuole addirittura candidarsi con il nome, dovrebbe dimettersi da una carica a cui l'ha nominato Giorgio Napolitano, uno sgarbo istituzionale mica da poco. Oppure appoggia una qualche lista, fa queste liste per Monti e in qualche modo le battezza dicendo «sono con voi». Non si capisce, il professore tace. Scrive anche Repubblica a pagina 3 con Goffredo De Marchis e il segretario, cioè Bersani, lo avverte: se scendi in campo lo scontro è inevitabile. Un Pierluigi Bersani che è andato da Mario Monti e scrive Repubblica, in genere anche qui retroscena di solito ben informati, questa volta non trapela nulla. L'unica cosa che trapela è che Mario Monti, mentre Bersani parlava, prendeva appunti sul block notice, il famoso celebre block notice di Mario Monti. Già quando era diventato premier, quando era andato in Parlamento, vi ricordate, parlavano tutti i parlamentari, lui prendeva appunti, riempiva di appunti il block notice. E che scriverà mai su questo block notice? Sta di fatto che l'unica cosa che ha fatto è prendere appunti mentre Bersani parlava. Anche Repubblica scrive: Bersani gli ha detto se scendi in campo lo scontro sarà inevitabile, lo ha sconsigliato ancora, ma da Monti silenzio. Per ora non si sa nulla. Secondo il Messaggero, Alberto Gentili, Bersani avrebbe detto addirittura: per me stai sbagliando, a Mario Monti. Ma è un Mario Monti molto incerto. Da una parte l'Europa mi chiede di scendere in campo, Hollande, tutti i capi di Stato spingono e chiedono che io rimanga in qualche modo in politica, ma davvero non ho ancora deciso. Si è deciso invece il Partito Democratico come saranno queste primarie. Allora, il 90% attraverso le primarie saranno scelti i parlamentari, il 10% invece verranno scelti dalla segreteria nazionale, da Bersani, così almeno titola il Corriere, a Bersani il 10% dei nomi. E poi ci sono le deroghe. Io lo sapevo che stavate attendendo questo momento. Hanno chiesto la deroga e la hanno ottenuta. 10 Repubblica ne nominava elefanti, 7 per la verità. Invece sono 10 del Partito Democratico che hanno fatto più di 3 mandati. Ma hanno chiesto la deroga e l'hanno ottenuta e quindi saranno nuovamente candidati. Chi sono? Ci vorrebbe, sapete come quando allo stadio viene annunciata la formazione. Mauro Agostini, in rigoroso ordine alfabetico, Mauro Agostini, Rosi Bindi, Gianclaudio Bressa, Anna Finocchiaro, Giuseppe Fioroni, Maria Pia Garavaglia, Giuseppe Lumia, Franco Marini, Cesare Marini e Giorgio Merlo. 10 parlamentari veterani definiti dal Corriere ottengono la deroga. E c'è polemica invece su, così, come dire, è un accordo che era stato fatto, cioè 90% alle primarie, 10% degli eletti scelti dalla segreteria del partito. Ed ecco, allora sono i blindati, no? I 120 blindati, racconta Maria Teresa Meli a pagina 11 del Corriere. Da Epifani, l'ex leader della CGIL, dovrebbe far parte di questa lista bersaniana. Miguel Gotor, che insegna storia moderna, è stato un uomo anche molto vicino a Bersani anche nei giorni caldi delle primarie. Carlo Galli, politologo, professore ordinario di storia delle dottrine politiche all'Università di Bologna. E tanti altri, e ovviamente per far posto a chi? A qualcuno che è già escluso, per esempio Anna Paola Concia, Roberto Giachetti, quello che ha fatto lo sciopero della fame per la legge elettorale, Stefano Ceccanti, eletto nel Senato del 2008, vengono definiti dal Corriere esclusi, come escluso anche Roberto Della Seta, pare, che ha condotto una dura battaglia contro l'Ilva, quello di cui Riva parla in una lettera del 2010 a Bersani chiedendogli di fermarlo. Della Seta è stato fermato, non sarà nel listino, e con lui sono stati fatti fuori anche gli altri due parlamentari ambientalisti, Realacci e Ferrante. Insomma, ovviamente è il momento in cui si sgomita per entrare in questa lista di bersaniani che avranno il posto assicurato. Anche per Repubblica, PD in 10 ottengono la deroga, anche loro faranno le primarie. Dall'altra parte Berlusconi ieri è andato in TV e stasera andrà in TV e giovedì forse ancora in TV dopo il traffico. Eccoci allora, Berlusconi ieri è andato in TV, era quinta colonna con Paolo Del Debbio e poi è andato in TV, vabbè, domenica la Barbara D'Urso, adesso è inutile stare a rivangare cose di due giorni fa. Per Repubblica Francesco Bei è la bomba mediatica di Silvio in TV fino alla par condicio. Ritorna anche la struttura Delta, scrive il Repubblica, con i direttori, il direttore generale dell'informazione del gruppo, Mauro Crippa, Fedele Confalonieri, Giovanni Toti di Studio Aperto, Mario Giordano di TGCom 24. Questa sarebbe la struttura Delta. Berlusconi vorrebbe andare in TV finché scatta la par condicio, sfruttare tutte le occasioni, tanto che domenica è dato a Barbara D'Urso, ieri era Rete 4 quinta colonna, stasera sarà Porta a Porta, ci sarà probabilmente il palinsesto a parte, no? Il palinsesto di Berlusconi evidentemente, stasera sarà Porta a Porta e udite Ugo Magri sulla Stampa dice, pagina 6, pensa di andare anche da Michele Santoro. Ah, ve lo vedete Berlusconi che si accomoda lì da Michele Santoro e Marco Travaglio? L'ultima sfida di Berlusconi, intervista in TV da Santoro. Ugo Magri sulla Stampa, pur di fare un botto fragoroso e di concentrare tutti i riflettori su di sé, il cavaliere è disposto a ciò che mai nei tempi d'oro gli avrebbe sfiorato la mente, calarsi nell'arena di Santoro. Ieri i primi contatti hanno permesso di fissare una data orientativa, il 10 gennaio alle 21:10 sulla 7. Berlusconi avrebbe preferito il 27 dicembre, ma in quei giorni servizio pubblico è in vacanza, mica potevano metterlo in onda solo per far contento lui. Allora ecco qui, insomma, i sondaggi dicono che da quando va in TV recupera punti, dal 15 sarebbe salito al 18% delle preferenze. Insomma, l'uomo nero, come scrive Ugo Magri, non dispiace ancora una fetta del popolo italiano quando lo vedono in TV. E dunque la strategia sarebbe quella: insistere presentandosi in TV tutte le volte che può, basta che gli lancino un fischio e lui, opla, si materializza. Quindi non so, io ho fatto l'appello a Rete, a Cireale, poco Rete Radio Cireale, ma insomma qualsiasi TV, Tele Lombardia, se volete chiamate Palazzo Grazioli o ad Arcore. Pare che Silvio Berlusconi sia molto disponibile in questo momento a rilasciare interviste, alle interviste televisive. Sulle interviste televisive c'è anche una polemica invece del Giornale, che mette in prima pagina altro che Barbara D'Urso, la vergogna sono Benigni e Fazio, e si riferisce a Fazio a che cosa? Racconta Paolo Giordano a pagina 10 del Giornale, a un tweet che è partito dalla redazione del programma di Che tempo che fa di Fabio Fazio, dopo che Domenica Live aveva ospitato Misseri, una pornostar, Eva Enger, ex pornostar, e Silvio Berlusconi. Ecco che sulla trasmissione, sull'account di Che tempo che fa, viene lanciato questo tweet: non abbiamo assassini, pornostar o adescatori di minorenni, ma sarà comunque una gran puntata. Il riferimento, scrive il Giornale, evidentemente a Domenica Live, appunto. Il problema è che c'è un gelo sulla rete, uno stile completamente diverso da Fabio Fazio, che peraltro in quel momento era a registrare, quindi non è sicuramente responsabile di questo tweet. Peraltro, scrive il Giornale, Misseri non è ancora condannato per sentenza, con sentenza passata in giudicato. Essere una pornostar non è reato, e stante la situazione giudiziaria, ritenere l'ex premier un adescatore di minorenni integra il reato di calunnia. Patapunfete, a questo punto si scatena la rete. Quando pare la ricostruzione del Giornale, Fabio Fazio viene a sapere questa cosa, fa subito togliere e cancellare questo tweet. Però ormai insomma la polemica c'è. Fazio and Company senza vergogna, il cavaliere adesca le minorenni, questo secondo la trasmissione di Fabio Fazio, è il racconto che trovate sul Giornale. Si candida invece Antonio Ingroia, venerdì sarà a Roma, pare ormai deciso, ha chiesto l'aspettativa al CSM, lascia il Guatemala i sogni di rifondare tramite l'ONU quel paese, dopo un mese e mezzo torna in Italia verso la candidatura. Lui dice: per la verità ho chiesto un'aspettativa preventiva, perché nel caso dovessi candidarmi, allora forse è il caso di muoversi in anticipo. Sta di fatto che sicuramente si candiderà e ci saranno polemiche anche su questo. Veniamo alle cose, non so se dire più o meno piacevoli rispetto alla politica, le tasse. Avete pagato l'IMU? Peter Bescapè, l'alpino, facendo di sì con la testa, Carmelo Lauricella facendo di sì con la testa. Beh, avete una casa, ecco, una prima casa, questo è anche, potete vedere sempre il bicchiere mezzo pieno. La notizia invece che è slitta ad aprile, la tassa sui rifiuti è rinviata alla scadenza di gennaio, raccontano Marco Mobili e Marco Rogari sul Sole 24 Ore a pagina 3. C'è stata la maratona nella notte per l'atteso sì della Commissione Bilancio al Senato della legge di stabilità, e uno dei provvedimenti è questo, la TARES, la nuova tassa sui rifiuti, quella che sostituisce la TARSU, viene fatta slittare. Da gennaio si pagherà ad aprile. Maligni, dicono. Il governo l'ha fatta slittare. Forse farla pagare un mese prima delle elezioni, per chi magari si vuole candidare, non era molto consigliabile. Meglio farla pagare 3 mesi dopo. In ogni caso, ci sono anche i dettagli invece sul Sole 24 Ore per chi vuole pagare l'IMU e magari non l'ha pagata e dunque è in ritardo. Cosa succede per i ritardatari? Il pentimento corre su tre vie, tre possibilità che trovate a pagina 2 del Sole 24 Ore. Tra l'altro, a quanto ammonta l'IMU raccolta non ci sono conferme al Ministero dell'Economia, ma pare sui 23-24 miliardi, scrive il Sole 24 Ore. Il Ministro dell'Economia Grilli ha dichiarato semplicemente così: un impatto salutare sui conti pubblici. E vabbè, cari italiani, non proprio un impatto salutare sul vostro portafogli, ma non si può mica ottenere tutto dalla vita, no? Ci fermiamo qui, è tempo di giornale radio. Pensate che il vostro salasso pagato ieri ha dato un bell'impatto salutare sui conti dello Stato. Sorridete, mani sul volante e al lavoro.